al tour con Ivan Basso. Appuntamento con il Tour de France di Ivan Basso in esclusiva su Radio 24. Oggi ultima buona occasione direi per i velocisti al Tour de France, l'arrivo al Lavour, la vittoria ancora di Mark Cavendish in volata, Vogler mantiene la maglia gialla ma tutta l'attenzione per la tappa di domani con l'arrivo all'Uzardiden, si cominceranno a scalare i Pirenei. Ivan, ben ritrovato. Allora, finalmente arriva il primo grande momento della verità di questo Tour. Con che condizione arrivi in vista dei Pirenei? Buona serata a tutti. Sicuramente arriviamo tutti con 11 tappe di grande fatica e quindi domani è un giorno molto particolare, è il primo vero arrivo in salita di questo Tour e quindi tutti cercheremo di capire, tutti gli uomini di classifica cercheranno di capire qual è la reale condizione. Io credo di aver fatto bene in questi 11 giorni, arrivo in una situazione di classifica così che molto buona e quindi domani cercherò di fare una buona prova e scalare qualche posizione. Senti, ma toglici una curiosità, come si dorme la notte prima dei Pirenei? Si pensa alla tattica, si parla col compagno di camera magari per condividere emozioni, sensazioni, come la passerai questa nottata? La cosa più importante è quella di sapere di aver fatto tutto bene, essersi allenati alla perfezione, quindi cioè avere la coscienza a posto, cioè di aver fatto tutto quello che era giusto fare per arrivare al meglio al via del Tour. Quindi questo è sufficiente per poter dormire tranquilli e presentarsi insomma al via della tappa di domani molto tranquilli, come se fosse un giorno normale, perché altrimenti la tensione può portare poi ad avere una condizione che non è quella giusta. Ecco, si scala il Tourmalet, c'è un ricordo particolare dei tanti tour che hai fatto legato a questa montagna leggendaria? Sì, ho vinto una tappa nel 2004 al Tourmalet, però in questi casi si pensa sempre a quella che devi fare, non quella che hai fatto. Domani anche 14 luglio, presa della Bastiglia, ti aspetti uno spettacolo particolare da parte dei tifosi francesi lungo le strade, di solito è così? Sicuramente quello, però oltre allo spettacolo dei tifosi sulle strade mi aspetto anche lo spettacolo degli atleti francesi che come ogni anno in questa giornata c'è sicuramente una motivazione in più per loro e quindi ci sarà sicuramente un avvio di tappa movimentato per cercare la fuga, perché comunque la giornata di domani per un atleta francese chiaramente vincere la tappa sarebbe il massimo, però anche una bella azione, passare queste salite mitiche per primi può essere sicuramente un grande traguardo. Allora Ivan, intanto grazie, ti aspettiamo domani sempre qui a Radio 24 in esclusiva dal traguardo di Luz Ardiden. Grazie a voi, buona serata.